domenica, tutti allo stadio, tutti convocati allo stadio per sostenere il Toro, per tifare Toro in questa partita importante. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Suarez va a Cino e trova un gran gol. Gol del vantaggio del Villarreal al minuto 82. Lewandowski dalla parte opposta, sta per uscire il polacco, forse l'ultima azione della sua partita, vediamo come se la gioca, ne salta due, offre ancora a Bernardeschi, è quasi in zona tiro, ci pensa, sinistro, deviato, e va dentro, ha pareggiato la Fiorentina, col missile dell'uomo più in forma, Federico Bernardeschi. Can't think, can't sleep, can't breathe. Parolo nell'area piccola, dare fastidio a Muslera, c'è anche Matri. Lì vicino al portiere del Galatasaray, Biglia la mette Milinkovic, il gol del pareggio della Lazio, 21esimo minuto, Milinkovic, secondo gol europeo della stagione, gol, inutile dirlo, pesantissimo nell'ottica del doppio confronto. Allora, tanto per cominciare, la Ferrari è già un po' in ritardo, deve iniziare alle 2 precise la presentazione della nuova macchina, è uscito invece solo un minuto fa, arriva bene, si sono accese le luci sulla nuova rossa. Però è elegante. Bella. No, dico, arriva bene. Sì, in tenuta Ferrari. Barba fatta, ho tenuta. Ho visto anche Ferrari. Raikkonen e Vettel, due damerini. Mi fai sentire cosa sta dicendo un attimo, arriva bene? Well, it is too little, I think. Its name is Ferrari, and I think that this goes beyond the concept of a race car. Well, we hope that this will be a winning car. Vabbè, vi risparmio l'inglese. Sì, poi, però sta dicendo le cose che vengono dette ogni volta che certo. Si comincia una stagione. Ci auguriamo che questa sia una macchina vincente. Questa. È una macchina bellissima, questo deve essere l'anno. E poi ne parliamo, dai. E poi ne parliamo. Oh, ovviamente. Diciamo già chi sarà ospite domenica? No. Chi? Sì. Diciamo, ci sarà, sai che in questi domani, no? È il 30° compleanno del Milan di Berlusconi. Berlusconi, ecco, non avremo Berlusconi. Non avremo ma Berlusconi. Ci saranno delle sorprese incredibili. E beh, allora, mi hai detto chi è l'ospite? Mi hai detto chi non è l'ospite? Non è Berlusconi. Domenica 17-19. Vabbè. Ma poi magari diciamo qualcosa dopo il traffico, facciamo o dopo la borsa, diamo, non lo facciamo, so. Facciamo la mod indovinello, diamo qualche indizio qua e là. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Bene, reduce da maggioranza assoluta, come è andato? Sì, ma sono benino. Sei divertito? Sì, beh, sono contento che abbiamo mantenuto un livello di civiltà, diciamo, che era un po' la mia preoccupazione. È stato interessante, ha vinto il signor Pucci, che il signor era, Pucci, era sì. L'outsider, si è arrivato prima davanti a Luxuria, poi terzo Formigoni, quarta Barra, quinto Facci, questo è l'ordine d'arrivo, come nelle corse ippiche, sì, come... eliminato ma testa alta, sai che io amo dire, sì. Come la nazionale di rugby qualche volta esce dal campo, sempre sconfitta, ma qualche volta testa alta, poi parleremo anche di quello, oltre che della Ferrari. Intanto, sai Piero, ho convocato Mister Ranking UEFA, che è sull'orlo delle lacrime, Giovanni Capuano. No, anzi, ma che la cosa che sfugge... Anzi, vita, prima gli ho visto una lacrimuccia e gli è partita. No, la cosa che sfugge a tutti è che, malgrado i risultati pessimi di questo giovedì, abbiamo guadagnato rispetto all'Inghilterra, perché l'Inghilterra è riuscita a fare peggio di noi. Cioè, noi non abbiamo il Manchester United che perde col in Danimarca. Midtjylland. E quindi se può interessarvi, perché voi mi avete chiamato solo per questo, poi vado via. Quindi, sono i miei 30 secondi di celebrità. Abbiamo guadagnato 82 millesimi di punto ieri. Buttali via. Addirittura. E quindi insomma. Quindi bandiere italiane fuori dalla quindi finestra. Quindi vi posso salutare? UEFA. No, stai qui, dove vai? No, beh, non, fino adesso è andata benissimo. Benino. La verità è che insomma sconfitta la Roma, battuto il Napoli 2-1-1, di cui quell'interno della Fiorentina con il Tottenham che è il Segugio che insegue Ranieri nel campionato inglese. La Lazio onestamente ha avuto quella che ha avuto sorteggio più favorevole, ha giocato una buona gara. Sì, c'è anche come ama dire Pierluigi Pardo, se lo conosci, c'è anche molta casualità, c'è anche molta casualità in questi tre giorni, perché a me non piace ad esempio la campagna che è stata aperta nelle scorse ore sull'arbitraggio di Villarreal-Napoli, però se li metti in fila da Roma-Real Madrid fino ai rigori negati alla Lazio, a quello che è successo a Firenze, apriamo subito un euro dossier al Napoli, euro dossier subito sul tavolo, non siamo stati euro trattati dossier benissimo, andiamo cioè, in Europarlamento, Pardo, partiamo per l'Europarlamento, apriamo un dossier, facciamo un casino pazzesco. Sì, apriamo. Basta andare perché a Viareggio, basta andare da Collina. Lui da Collina, esatto. Abbiamo pure il capo degli arbitri a due metri. No, io voglio muovere le istituzioni politiche come si fa di solito in questi casi. Il solito esagerato, il solito sborone. Sicuramente gli episodi, diciamo, con la formula di rito, gli episodi non ci hanno aiutato in questa due giorni. Sì, gli episodi non ci hanno aiutato. Non hanno aiutato di nuovo il Napoli che ha perso una gara, era Napoli non B, ma era Napoli del turnover, il Napoli di Coppa, ha perso in maniera molto simile alla gara perduta contro la Juventus. Sì, nella casualità e soprattutto della tempistica del gol subito sicuramente, e quindi sono due indizi che le cose non sono tragiche ma non sono neanche probabilmente brillantissime. È stata una partita equilibrata, mi sembra, sì, stamattina ho rivisto un po' di cose, ovviamente molto ieri ero nel delirio, però stamattina ho rivisto molte cose e insomma forse ma dopo siamo bravi tutti a parlarne. Si potevano anticipare gli ingressi di Higuaín e Insigne e questa poteva essere una soluzione. Al ritorno secondo me è fattibile, certo 1-0 è un risultato scomodo, sì, risultato molto. Anche se Pieri, il paradosso è che la mezz'ora bella del Napoli è stata la seconda del primo tempo, cioè senza Higuaín, e Insigne, e poi dopo il secondo tempo sinceramente a me il Napoli nel secondo tempo non è piaciuto, ma non tanto perché ha perso, perché si può perdere, ma tu non puoi lasciare 4-5 palle gol scoperte come ha fatto il Napoli ieri sera e poi alla fine il gol l'ha preso. Ma qualche problemino là dietro si evidenzia, ma dopo approfondiamo il discorso Napoli. Fiorentina la vedo, ha giocato una buona gara, è stata anche un pelo sfigata, ha pareggiato in rimonta con Bernardeschi, che io gli europei me lo porterei subito, mi piace anche come atteggiamento questo ragazzo, gran faccia tosta. E la Lazio, io credo che passerà il turno nel solito deserto dei Tartari che è diventato l'Olimpico, salvo l'altra sera. Ci fermiamo, poi ne discutiamo insieme, aspettiamo un ospite. 800 24 00 24, traffico. Tutti convocati. È tempo in cui fioriscono i nuovi programmi. Mister Condò, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Mister Condò, prima vittima Mancini, poi ne parliamo del tuo nuovo programma su Sky, Paolino. Stavamo sottolineando con Pierluigi Pardo e con Mister Ranking invece, Giovanni Capuano, che non ci ha detto bene in questa due giorni europea, due sconfitte, due pareggi. E poi c'è chi scrive: ma smettetela di parlare sempre di arbitri, nel turno di Coppa nessuno ha inciso più di tanto, ma quale cazzo di rigore per il Napoli, ma quali due rigori per la Roma, parlate di calcio giocato, parlate del Milan che va a vincere a Napoli lunedì. Quindi calcio futuro. Calcio futuro, va bene. No, comunque Paolino, non benissimo, due pari, due pareggi, due sconfitte, Ranking UEFA non ne risente più di tanto perché c'è chi ha fatto peggio, come ad esempio il Manchester United, incredibile. Però Van Gaal gioca per noi. Sì, ma Van Gaal gioca per tutti salvo che per i Reds. Insomma c'è un po' di delusione, direi soprattutto in Europa League, perché onestamente che la Roma avesse un compito difficile me l'aspettavo. È vero che non avrebbe meritato di perdere, però per quale motivo Cristiano Ronaldo viene pagato 100 milioni? Perché ti fa vincere anche le partite che non meriteresti di vincere, è molto semplice la questione e devo dire nulla di sorprendente, l'ha già fatto centinaia di volte. E in Europa League invece legittimamente ci si poteva aspettare qualche cosa di più. Direi che soltanto la Lazio, tutto sommato, abbia fatto per intero il suo dovere, anche lei poteva vincere, comunque ha ottenuto un ottimo risultato. Il Napoli ha proseguito un po' sulla tendenza vista allo Stadium di non riuscire contro le avversarie forti, il Real è forte, a riproporre il suo gioco per intero. Questo è il problema. Sì, intanto ha parlato oggi, giorno di vigilia per l'Inter, Roberto Mancini, che è andato in conferenza stampa pur dicendo perché sono obbligato, se no eviterei volentieri, e ha detto anche qualcosa di interessante. Non è stata una conferenza stampa banale, sentiamo. Ne abbiamo vinte nel giorno d'andata 10 su 11, mi sembra, o 5, 3, sì, comunque ne abbiamo vinte tante. Insomma, dovremmo vincerne altrettante per arrivare terzi, quindi io credo che le possibilità ci sono ancora, perché le partite ce ne sono. Le squadre sono un po' diverse, però quando si recupera punti e si centra un obiettivo, diventa una cosa importante. Fortunatamente non è nulla è perduto nonostante la sconfitta di Firenze. Questo capita a volte, non è una questione fisica, non è una questione tecnico, tattica. Le cose non stanno andando bene e nonostante abbia fatto le buone gare dove non meritavano di perdere, abbiamo perso. Qui bisogna essere in grado di accettare anche questo, essere consapevoli, essere anche bravi a stare dentro questa situazione e riuscire a recuperare finché c'è tempo. In un niente cambia tutto e se fra 5 partite siamo di nuovo terzi in classifica, si parla di nuovo al contrario. Quindi è questo, bisogna essere in quel momento, in questi momenti bisogna capire che dobbiamo parlare di meno. Se io non potessi non fare la conferenza stampa, non la farei. Siccome Gigi mi obbliga sempre a farla, perché credo che è inutile parlare e dire, cioè bisogna star lì, lavorare, fare tutto il massimo e l'impossibile per tornare fuori. Così Roberto Mancini. Gigi Grippa, lo salutiamo. Sì, Grippa, lo salutiamo. Responsabile comunicazione dell'Inter. No, molto tranquillizzante, no? Molto tranquillo anche, e forse di questo che l'Inter ha bisogno, no? Di un Mancini un po' più tranquillo. Piano. Sì, ma soprattutto di un Mancini che riesca a dare degli stimoli alla squadra, in questo ha perfettamente ragione. Cioè, capisco la frustrazione del dover andare a parlare in conferenza stampa quando poi in realtà le cose in campo non stanno andando come dovrebbero. Questo è il vero tema, secondo me, in questo momento in casa Inter. Quindi capisco la frustrazione, le risposte le può dare solo il campo, dai, c'è poco da aggiungere. È una squadra che non ha mai avuto una grande qualità di gioco, nemmeno quando vinceva le partite, però aveva molta compattezza, questa è comunque una grande qualità, e che trovava delle soluzioni, anche perché il talento non manca. Magari è un talento un po' discontinuo, magari è un talento difficile da gestire, da amministrare, con tante opportunità di scelta, di tanti giocatori tutti abbastanza umorali, e quindi non è facilissimo stabilire la gerarchia, però il talento non manca. Quindi da questo punto di vista, francamente, mi aspetto qualcosa di più. E mi aspetto anche un Mancini che viene tranquillo in conferenza stampa, ma che poi nello spogliatoio sarà pure. Sì, Paolo, tu lo conosci come pochi, Roberto Mancini, tanto che appunto è stato è stata la tua prima conversazione per Mister Condò. Come interpreti questo momento? Cosa ha davvero nella testa, secondo te? No, beh, lui sicuramente nella testa ha un po' di frustrazione, perché lui pensava di essere più avanti rispetto a dove si ritrova invece adesso, proprio come sviluppo del progetto. Lui pensava a un certo punto, e ora a un certo punto ha pensato anche a lottare per lo scudetto, che evidentemente, per come si sono messe le cose, era un obiettivo troppo ambizioso quest'anno. Però lui ha pensato, diciamo, dopo Napoli, dopo la sconfitta di Napoli, dopo la più bella delle sconfitte di quest'anno, esatto, perché sappiamo che nel finale l'Inter in 10 sfiorò il pareggio giocando molto bene, quella gara diede una fortissima forza morale a Roberto e alla squadra anche. Ecco, e difatti quello è stato il periodo nel quale sembrava sul punto di decollare, perché aveva vinto bene a Udine, aveva vinto bene poi in casa, invece di vincere sempre 1-0 aveva vinto bene con il Frosinone. La gara con la Lazio, quella proprio subito prima delle vacanze, è stata come prendere un gol al 45esimo del primo tempo. Passi tutta il riposo, anziché rilassarti e ricaricarti, passi tutto il riposo a, a tormentarti con i rimorsi. Tra l'altro di quella partita, tutta la di quella pausa. Sì. No, dico, di quella partita si dice pure che poi ci siano stati problemi anche dello spogliatoio. Regolamenti di conti spogliatoio. Esatto, quella partita ha un po' cambiato il senso di marcia della squadra, probabilmente una certa compattezza anche psicologica che veniva espressa. Succedeva una cosa nello spogliatoio dell'Inter non banale: dopo ogni vittoria erano tutti assieme a fare l'epic brozo, no? Il gesto così, sì. Si vedeva che era un gruppo, si divertiva. C'era anche, voglio dire, Icardi quando stava in panchina o Jovetic quando stava in panchina, che di solito tu i giocatori, la squadra ha vinto ma un giocatore molto importante è rimasto in panchina o non partecipa o lo vedi insomma chiaramente con una faccia peccata. Che l'ha costretto Gigi, pure lui. Beh, bravo, ecco. E lì invece li vedevi tutti quanti allegri. Dalla gara con la Lazio in poi, dove secondo me, non lo so che cosa è successo, non gliel'ho chiesto, non ho idea, però posso immaginare lì Felipe Melo fece veramente di tutto e di più in quella partita, ecco, e quindi magari qualcuno si sarà arrabbiato, gli avrà detto qualcosa. Melo non mi sembra il tipo che le manda che abbozza, a dire poi, sì. Ecco, quindi potrebbe essere successo qualche cosa in questo senso, ecco. Da lì in poi c'è stato il problema che durante la pausa probabilmente sono rimasti a pensare a quello, non sono riusciti ad andare avanti, difatti poi hanno fatto molto poco di buono del gennaio. Però Paolo, vogliamo anche dire una cosa, io ho ripercorso i 3-4 mesi di Mancini, anche quando le cose andavano bene, quelle volte che l'Inter è scivolata, poi è diventato sempre più frequente, io non ho mai sentito una volta Mancini, e anche oggi ha fatto lo stesso discorso, dire beh, però io ho sbagliato, potevo cambiare qualcosa, posso fare qualcosa di diverso, posso dare di più. Cioè noi abbiamo sentito in questi mesi Mancini parlare degli arbitri, dei singoli, appellarsi ad alcune situazioni. Oggi ha detto abbiamo perso partite che non meritavamo di perdere. Non è vero che nelle ultime 9 l'Inter ha perso partite che non meritava di perdere. Col Milan ha meritato alla fine di perdere, magari non 3-0, ampiamente ha meritato. In Coppa Italia con la Juve ha fatto una partita decorosa, no, ma poi ha meritato di perdere. Io penso che lui si riferisse più che altro, allora, la partita di Firenze, per me se finiva in pareggio non c'era nulla di sbagliato, il pareggio col Carpi, quello gli è rimasto, quel gol di Lasagna al 48esimo, quanto era, quello certamente gli era rimasto. Però se sia chiaro, ripeto, sto parlando di un mio vecchio amico, non stiamo mica parlando dell'uomo perfetto, eh? No, certo, Roberto c'ha una quantità di difetti come tutti noi. No, però anche tornando a quel famoso Inter-Lazio, Paolo. La storia degli arbitri. Lui sicuramente non dà una mano agli arbitri a farsi ben volere, certo. Perché c'è sempre. Poi dice delle corbellerie grandi come una casa, per esempio, questo glielo ho detto anche. Quando lui dice di solito le capoliste non ricevono tanti rigori contro nel finale, sì. Se ci sono te li devono fischiare, c'era quello con la Lazio, c'era col Sassuolo, però ripeto, poi c'è Sousa che dice ma hanno squalificato Zarate perché giochiamo contro la Roma. C'è chi fa di peggio, c'è chi fa di peggio. C'era Sarri, ecco, che ha detto per avere un rigore devi avere la maglia a strisce. Ciascuno, non sono uomini perfetti, proprio faccio all'Implicit, all'incipit sono tutte brave persone che però il tre dell'adrenalina ogni tanto sparano una cazzata. Io li rispetto molto, provo anche affetto per tanti di loro perché comunque sono uomini che guidano altri uomini, però non sono uomini perfetti, ciascuno di loro ha i loro difetti. L'unica cosa che ti devo dire che ho trovato sbagliata nel giudizio generale, in generale su Mancini da parte della critica specializzata, ecco. Noi sappiamo che nel corso della carriera di un allenatore ci sono sempre dei momenti. Guarda Van Gaal. Van Gaal è un incapace. Quest'anno sembra. No, certo. Ha avuto diversi passaggi a vuoto in carriera. Dovremmo sentire Carlo Freccero su Van Gaal. Ha vinto anche grandissime cose creando nuove squadre. Van Gaal. Voglio dire, Mancini ha vinto all'Inter, ha vinto al Manchester City. E non è inutile dire. Al Manchester City aveva tutti i campioni, perché non è che all'Arsenal al ma no, ma è chiaro, no, ma questo non vale, anche quello prima al Manchester ma City. Ma sì, ma campioni. Senza grandi campioni non vinci, questa ecco, è una banalità. Se tu mi dici, Mancini sta dando meno, da un po' di tempo sta dando meno di quello che potrebbe dare, sono d'accordissimo. Tu mi dici, Mancini un pallone gonfiato? No, non sono per niente d'accordo. Ma assolutamente, ma guarda, poi secondo me su Mancini allenatore, col fatto che ha cominciato la carriera, diciamo, con quella scorciatoia dovuta essenzialmente a quella che era la forza di Mancini da calciatore, che non va dimenticato, perché qui stiamo parlando di uno dei grandi fuoriclasse del calcio italiano degli ultimi 30 anni. Forse qualcuno c'era anche un po' ancora per quello, cioè questo tipo di cosa gli è rimasta. Io sento alcuni colleghi, insomma, che non hanno simpatia, che lo considerano uno che ha avuto delle scorciatoie, però insomma il giudizio, come sempre, il giudizio dovrebbe essere un giudizio bilanciato. Stiamo parlando di un uomo che ha vinto tanto. Poi in alcune sue vittorie si può anche discutere su quello che ha portato realmente, su quanto sia stato rivoluzionario il suo contributo. Su questo si può discutere e ragionare, però insomma complessivamente mi sembra non possiamo adesso improvvisamente considerare dire che Mancini è un brocco, no. Mi sembra veramente un'assurdità. Posso l'ultima curiosità veloce a Paolo, che conosce Mancini veloce con le sue tasche? Secondo te gli darà fastidio domani sera Mourinho in tribuna o no? Sì, secondo me un po' sì. Non gli ha fatto un regalo, non lo dirà mai. No, infatti ha detto oggi che sì, chiunque può andare allo stadio, e Moratti può invitare chi vuole. Ha detto questo. No, anche perché poi ho letto di questa cosa, non so veramente nulla. Ho letto che Mourinho sarebbe venuto a prendere o a provare a vedere per Icardi e Miranda al Manchester United. Icardi e Miranda all'Inter di oggi è un grave guaio. È un problema, cioè, sì. Non soltanto Mancini dovrebbe temere questa presenza di Mourinho in tribuna. Anche Icardi? Anche i tifosi dell'Inter. se si prende Icardi a un prezzo equo, fa un danno all'Inter? Da che parte stai? Secondo me Icardi ha delle potenzialità ancora abbastanza inesplorate, per le quali io non lo cederei. Per carità, se ti danno 80 milioni cedilo, certo, sì. Però per cifre molto importanti, anche tipo 35-40, io ancora un anno me lo terrei. Grazie Paolo, grazie ciao, mille grazie ciao, a voi. Ciao mister Condò, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24, numero verde. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Wie ein Stanger. Oh, wie vermitteln. Du ermittlern. Samen wie Stor. Her fra min vært går. Du mit lys. Du mit. Io Luigi Pardo, prima di salutarti ti dedico questo momento musicale commovente, che è successo? È l'inno del Midtjylland. Ah, mica paglia, Sì. Midtjylland, che è stato fondato nel 1999 dalla fusione di altri due club dal nome impronunciabile, da Johnny Rune, un falegname proprietario di un'azienda privata nel settore del legname, e da Stan Hassel, un rivenditore autorizzato Mercedes-Benz. In quello stesso anno il falegname è concessionario. In quello stesso anno lo United vinceva a Barcellona la finale di Champions League con il Bayern, certo, Monaco. Quella più pazza della storia. Risultato finale 2-1. Stesso risultato che si è ripetuto ieri sera sul prato del Midtjylland, ma non ha vinto il Manchester United. Ma in realtà il Midtjylland, che lo conosciamo perché stava nel girone del Napoli e ha fatto un buon girone. Sì, Napoli, sì. Anche con 9-1 con Napoli. Anche con Napoli. Il Napoli ha fatto 9-1, però questo, scusate, è un punto di forza del Napoli, perché il Napoli ha fatto 9-1 fra data e ritorno con la squadra seconda nel girone, quindi vuol dire comunque che era meglio degli altri, dei polacchi e dei belgi. Sì. Io penso sinceramente che lo United abbia grossi problemi, ma non lo scopriamo da ieri sera. Lo United è in una fase veramente di grande transizione, e i discorsi che abbiamo fatto prima valgono. È chiaro che lì la figura carismatica di Ferguson rappresentava qualcosa di più di un allenatore, è proprio un'era geologica quella di Ferguson, e quindi credo che pesi tantissimo, qualcosa che secondo me non ha precedenti, cioè se andiamo a vedere gli altri grandi club, non esiste in tempi recenti un rapporto di dipendenza così profonda. Il Barcellona comunque se l'è cavata bene anche senza Guardiola, ha avuto delle fasi ovviamente di calo, però ha ritrovato un equilibrio soprattutto con Luis Enrique. L'Inter è andata in crisi, ma è andata in crisi perché quella generazione di giocatori non c'era più, o comunque si stava sgretolando. Lo United credo che paghi veramente moltissimo l'addio, il distacco, l'elaborazione di un lutto, ecco, l'elaborazione di un lutto sportivo. E adesso arriva Mourinho, Mourinho. È l'uomo giusto, è quello che Sir Alex Ferguson voleva più di tutti. Tra l'altro, no? È 4-5 anni che sappiamo che dopo Ferguson prima o poi sarebbe arrivato Mourinho. Sì. No, e gli altri in mezzo erano semplicemente delle parentesi. Oh, la prestazione di ieri sul campo del Midtjylland ha sdoganato sulla prima pagina del Mirror le parolacce. Il Mirror ha fatto la prima pagina con questo dialogo tra un tifoso del Manchester che era andato in Danimarca e Van Gaal, dove il tifoso arrabbiato, viene descritto così, dice "We are shit and we know we are", e Van Gaal gli avrebbe risposto "You are right, we are", cioè noi siamo... Delle merdacce, ecco. Lo sappiamo. E Van Gaal ha detto lo sappiamo. Insomma, tutti d'accordo, tifosi e allenatori, no? Quello lì è un corner, and you know you are, and you know you are, cioè lo sei, sei una me, e lo sai pure che lo sei. Sai di essere. È straordinario. Ti saluto Pier, ricordandoti però che, e ricordatelo questo, ricordatelo bene, il fatturato, il signor fatturato del Midtjylland è 50 volte inferiore a quello dello United. Fantastico. Io sono a fare quello Bologna del Villarreale è più o meno metà di quello del Napoli. Che dicono i fatturati su Bologna Juve? Che dicono i fatturati su Bologna? Guarda, dicono come dicono quello che ha detto Donadoni, perché questa domanda gliel'ha fatta Max Nerozzi inizio settimana sulla stampa, e Donadoni ha risposto: "Bah, sì, non c'è partita, poi a calcio si gioca in 14 contro 14, comprese le sostituzioni, e noi questa sera facciamo partita". E io dico che secondo me la Juve questa sera rischia. Sì, poi ne parliamo e sono d'accordo. Ciao Pier. Ciao. Marco Roma, buongiorno. Grazie per la convocazione. Intanto parliamo di Totti? Io ne avrei anche una discreta voglia di parlare di Totti. Guardi, parliamo anche di Totti, se vogliamo. Sì. E io sono, come dire, ammiro Totti perché è sempre stato quello che comunque ci ha rappresentato, è stato quello che comunque, quando è stato il momento, ebbe il coraggio di, durante l'intervista, dire con la Juventus giochiamo 12 contro 11, poi può piacere, non può piacere, no? Comunque no, è sempre stato un leader, appunto, è sempre, assolutamente, insomma, non possiamo discutere. Non credo che in questo momento la società sia, come dire, si stia comportando nella maniera adeguata nei confronti di una persona, di un calciatore che ha avuto tanto, ma che credo che in termini di rappresentatività... Ma la società o l'allenatore? Guardi, l'allenatore arriva ultimo. Arriva ultimo da questo punto di vista. Io non ricordo che da quando c'è questa società, io sono romanista, quindi anche se poi ho smesso di frequentare gli stadi qualche anno fa, però già da quando arrivò Luis Enrique si cercò subito, come dire, di mettere in ombra una figura che forse può risultare ingombrante, perché chiaramente questo è un giudizio che uno respira. No, ma questo da quello sì, che questi sono discorsi che abbiamo fatto diverse volte, però quello che dico io e che ho detto ieri è che questo mesto addio al calcio di Totti a me non piace, così come non mi è piaciuto, cioè non mi piace il trattamento che gli viene riservato, così come non mi era piaciuto il trattamento che venne riservato da Conte a Del Piero, perché per un giocatore di questo tipo, va bene che sono professionisti, tutto quello che vogliamo, però chiamarlo a 5 minuti dalla fine della partita, scaldati, a 3 minuti dalla fine della partita, va in campo e gioca il tempo di recupero, cioè io lo trovo vagamente offensivo. In questa, cioè, però un allenatore può fare quello che vuole delle sue scelte tecniche. Il problema secondo me non è l'allenatore, il problema è che alla Roma forse oggi non c'è nessuno in grado di fare quello che ha fatto la Juve con Del Piero, cioè dire siamo molto contenti, a luglio Del Piero smette. Il che era stato inelegante, ma del tutto legittimo. No, era anche stato alla fine, riguardato col senno di poi, il modo migliore anche per lo stesso Del Piero di uscire di scena. Oggi però a Roma chi è che può fare questa cosa? Pallotta da Boston? No, Pallotta Sabatini parlerà, che non si sa se resta. Pallotta parlerà con Totti a marzo, si dice, per definire il suo futuro in società. Non dimentichiamo che quando arrivò Pallotta si trovò un contratto di Totti già inchiostrato, futuro in società compreso. Però io sto parlando di campo, cioè di un allenatore ha diritto di fare quello che vuole, però a me fa male vedere dei grandi campioni, a prescindere da, da quale maglia indossino, che vengono trattati come l'ultimo dei ragazzini per andare a tappare il buco e a perdere un po' di tempo con la sostituzione. Tutto qui, questo è semplicemente il mio pensiero. Ad esempio, Kobe Bryant ha annunciato, come succede sempre in America, il ritiro alla fine dell'anno. E tutta l'America fa la fila, e certo lui non parte dalla panchina e non fa 5 minuti di partita, ma la gioca tutta da protagonista e spesso in maniera meravigliosa, ancora adesso, e tutta l'America fa la fila per andare a vederlo l'ultima volta. Sì, però Kobe Bryant probabilmente ha ancora un impatto che Totti non ha, e poi la stagione NBA, tu lo sai meglio di me, è costruita, sì, sì, che si fanno, non dico 80 amichevoli, però può anche essere un lungo addio. Poi quando arriva il tempo dei playoff magari le rotazioni si accorciano e c'è meno spazio per i saluti, per la nostalgia. No, io credo che Spalletti faccia bene, ma del resto dobbiamo essere coerenti, cioè noi per anni, gli ultimi, abbiamo detto che tutti gli allenatori della Roma si scottavano sul tema Totti, erano schiavi di questa cosa che Totti doveva giocare, Totti più altri 10. Adesso arriva Spalletti, fa una scelta chiara, definitiva, perché Totti probabilmente non è un giocatore più funzionale alla Roma in questo momento, e noi critichiamo Spalletti perché fa questa cosa qui. Il resto compete alla società, non a Spalletti. Spalletti allora, allena, ha ragione quando dice che allena una squadra, sì, e non un questo, singolo. Sì, sì, va bene. Ne torniamo a parlare dopo il traffico. C'è anche Antonio Giordano, che già saluto, che è inviato ovviamente. Ciao a tutti voi, ragazzi. Ciao Antonio, andiamo col traffico e poi parliamo con calma. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Tutti convocati. All'8-00-24-00-24 come ogni giorno. Io saluto Alessio, ci tengo particolarmente perché sta ascoltando Tutti convocati da un mototaxi che sfreccia a 70 all'ora nel traffico di Bangkok. Pensa un po', dove arriva la tua voce, Antonio Giordano? Ragazzi, state facendo di me una sorta di miracolo. Giordano a Bangkok. È da Bangkok, sì sì, ci ascolta tutti i giorni, ma non è l'unico che ci ascolta dall'estero, arrivano messaggi dall'Australia, da ogni angolo do mondo. Dimmi la sono tua... un personaggio, cioè vuoi dire questo? Esattamente, dimmi la tua su Totti e poi mi dici anche la tua sul Napoli, visto ieri, c'è da preoccuparsi o no? Ma la mia su Totti è semplicissima, sposa direttamente tutto quello che ha detto Zeman, ma non per affinità o per simpatia, perché credo che nessuno come lui lo conosca, credo che meriterebbe un miglior trattamento, forse una forma di rispetto maggiore. So di urtare la suscettibilità di Spalletti, che sull'argomento insomma si è risentito recentemente anche su quello che aveva detto proprio Zeman. Però onestamente non si fa entrare a 5 minuti alla fine. E questo è quello che penso. E devo dire, mi permetto di aggiungere anche dal mio punto di vista, che se deve esserci scelta totale e definitiva può anche essere affrontare con molta onestà intellettuale Totti, che è un monumento vivente non soltanto della Roma, del calcio italiano, e di caro Francesco, mi spiace, il tuo tempo è scaduto, lo faccio per te, non vieni neanche in panchina. Certo, certamente, altrimenti lui ci va con quella faccia un po' così di quello che non vuol fare polemica, vuol stare al posto suo, però si vede chiaramente che è deluso, e allora poi fa gli scherzi a piani, spalleggia con il ragazzino, esce dal campo e al giornalista che gli fa una domanda dice ma che parli, ma io ormai non conto più nulla. Insomma, sono cose, lo fa, cioè sta gestendo il momento con grande pazienza anche, con grande... devo dire, c'è un errore di fondo, onestamente, cioè quello di portare un contratto a scadenza a scadenza così avanzata, insomma. Sì. Si poteva anche prevedere, cioè visto da quest'altro punto di vista, perché se ce le dobbiamo dire tutte, diciamo. Sì. Però una volta che c'è una forma di rispetto che si deve a quello che è stato uno dei più grandi calciatori di tempi del nostro calcio. Assolutamente. La tua su Napoli invece, sei preoccupato oppure no dopo averlo visto ieri sera col Villarreal? Ma io penso che Sarri un poco lo sia preoccupato, tu molto dici? Più di me. Tu dici? Ma sai, qualcosa è cambiato, e non soltanto perché il vento, tu me lo dici, quando cambia, insomma, ti rischia di farti ritrovare in una mareggiata emozionale, intendo dire. Uh-huh. Quindi se perdi una partita a 2 dalla fine e poi ne perdi un'altra a 8 dalla fine, e tutte e due le partite le avevi in pugno più o meno ed erano destinate allo 0-0, devi renderti conto o che stai pagando qualcosa per aver ottenuto in precedenza o che magari in futuro otterrai qualcosa. Questo non lo puoi prevedere. però sei arrivato anche a quel momento senza creare grandi. E, tra le pieghe di queste due partite ci sono due considerazioni, una di natura squisitamente tattica. Il 4-4-2 fa venire l'allergia al Napoli e il Villarreal si è messo a giocare come la Juventus. Ci sono stati momenti in cui sembrava una piccola Juventus. Cioè, è stata una partita stranamente, stranamente simile. Quasi uguale. Quasi uguale. Una cosa incredibile in certi momenti, cioè vedevi che attaccava con i tre larghi, poi nella fase passiva di nuovo tutti in linea a ostruire le linee di passaggio, infatti non passava. La seconda, questo Napoli non corre più come una volta, non è un allarme, non è una preoccupazione, però va sottolineato che insomma c'è una brillantezza inevitabilmente, è andata un po' svanendo e che tornerà. Sì, beh, credo che il dato più preoccupante sia che a mezz'ora dalla fine Sarri si è piegato, ha provato a inserire Higuain, poi ha provato a inserire Insigne e credo non l'avesse nella testa, perché non può pensare di fare la stagione competitiva fino a maggio da qui in poi affidandosi ai 12-13 del campionato, cioè, e questo richiama anche al mercato di gennaio e a scelte che sono state fatte. Aggiungiamo che Napoli ha fatto nelle ultime tre gare, ha segnato solo un gol con il Carpi su rigore. Certo, appunto, qualcosa è cambiato, appunto, no? Diceva. No, io credo che un po' di turnover ci fosse già nella testa di Sarri, e quindi il cambio Insigne Calleioni, non Insigne Mertens, che pure poteva essere sostituito per la prestazione, rientra nel minutaggio che devi lasciare ai giocatori per non caricarli di acido lattico. Tenete presente che Calleioni è un giocatore eternamente presente nel Napoli. E mentre probabilmente non si aspettava di buttare dentro Higuain, perché si aspettava un'altra risposta da Gabbiadini che non ha avuto, e a quel punto della partita, se devi cercare di tenere palla e di far reparto, la giochi con uno che fa paura da solo. Poi non l'ha fatta, ma questa è un'altra storia. Ma è vero che Sarri è un po' arrabbiato per quello che è successo a gennaio sul mercato, o meglio, per quello che non è successo? No, ma credo che, assolutamente, io credo che ci siano, come dire, attraverso le sue parole c'è l'espressione di quella che poi è la politica generale, no? A gennaio potevi cambiare la squadra e non era semplice. Avresti dovuto comprare un giocatore di grande qualità e anche di grande impatto, che ti sarebbe costato non meno di 25 milioni di euro, perché quelli sono stati i prezzi di cui si è parlato, e avresti inevitabilmente alterato un meccanismo onestamente in quel momento inattaccabile. Devo dire che questa società non ha comprato, ma non ha venduto neanche Gabbiadini, e ha avuto un'offerta da 28 milioni di euro. Che mi è sembrato mi sembra discretamente arrugginito. Devo dire la verità, io non so se De Laurentiis si sta pentendo. Come? Non ti ho sentito. Non so se De Laurentiis si stia ieri pentendo. Sera di sicuro, ieri sera, ieri sera di sicuro. È quello che dicevo, cioè, se tu sei costretto a mezz'ora dalla fine di un sedicesimo di finale di Europa League, dove tu hai in testa che questa è la competizione di Gabbiadini, almeno fino a metà marzo, fine marzo, poi vediamo, dover prendere, far alzare il talismano Higuain dalla panchina, tanto tempo dall'ultima partita di Europa League. Riflessione te la fa fare. Sì, ma è passato anche un'ora che ti ho dato di tempo e non mi hai fatto una giocata. Sì. Cosa dovrò pur fare? Visto che lo pagano per farlo allenatore, ho fatto bene. Sì. Quindi col Milan... al Milan, alla partita col Milan, l'ardua sentenza. Sì, tra l'altro in un ambiente che onestamente che credo sia un po' fiabesco, perché si va già verso i 50.000 spettatori. Stamattina erano 48.000, quindi è realmente la partita evento del momento, la grande partita, come giusto che sia, come reclama la storia di entrambi i club, è comunque la testimonianza di quello che ha avverto la città. Certo. La cosa più bella di questi 5 giorni è stato trovare 3.000 tifosi all'aeroporto dopo la sconfitta di Torino. Quello è stato impressionante. Grazie Antonio, a presto. Ragazzi, buona giornata, salutatemi, la nostra amica a Bangkok. Sarà fatto. Alessio, quelli... ciao, spero che sia sceso dal taxi. Sì. Michele da Pisa, lo sentiamo subito. Michele, buonasera, dica. Buonasera, niente, volevo dire una cattiveria su Mancini. Se mi leggi per cortesia, sì, come no? Se mi leggi per cortesia la classifica finale di quanto ha vinto Mancini, per favore. Non quando ha vinto cosa? In Italia il campionato. Ha vinto uno scudetto con 97 punti, stagione 2006-2007, quella per intenderci dopo Calciopoli. Oh. E la Juventus credo fosse a 20, la Roma credo seconda arrivata fosse a 23-24 punti e l'anno dopo vinse con 82 punti. Davanti, due punti più della Roma nel pomeriggio della pioggia di Parma in cui la Roma a Catania vinceva e poi perse. Questo è. Questa è la cronaca. Adesso poi ha vinto il Manchester City per un punto con gol all'ultimo minuto istante, di Aguero. Sì. Poi non lo so. Poi basta, è andato ad allenare in Turchia, non benissimo. Quindi, Michele? Quindi mancavano gli interpreti fondamentali che se non sbaglio erano tutti penalizzati, tra cui anche la Juve. Un anno, certamente. In Premier no, erano tutti lì. Quindi la cattiveria alla fine ha detto Capuano. Vabbè, ci fermiamo, torniamo dopo il GR, vi parliamo naturalmente della nuova Ferrari che è stata... cui sono stati tolti. Antonio Boselli ha scritto è rastremata dietro, quindi io devo capire adesso, andiamo di là e cerchiamo di capire cosa vuol dire. No, ma poi te lo spiega Turrini, ha un culetto alla Belen, ti dirà. Te lo anticipo, guarda. Gira. Signori, alla prossima! Tutti convocati. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Convocati. Dunque Giovanni, devi 50 cents a un ascoltatore che scrive che la rastrematura consiste nella scanalatura delle colonne doriche ed eoliche. Non è esattamente questo il termine corretto, però non è esattamente quello cui si riferivano a proposito del sederino della Ferrari, no. Poi te lo faccio spiegare invece. Marco, buongiorno. Rastremato da paura. Marco? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho chiamato riguardo Mancini, sì, che per me è sopravvalutato come allenatore, come tutto. Cioè, io dico il mio modesto parere, è uno che non ha vinto niente nella sua vita. Cioè, nazionale fallimento, ha vinto un mezzo scudetto con la Sampdoria dopo i mondiali. Ha fatto un terzo. Denigri pure Mancini. Le coppe campioni non sa cosa siano. Ci sono persone come Maldini, Baresi, Van Basten, no? E noi parliamo sempre di Mancini, non ha vinto niente, ha vinto uno scudetto da allenatore perché gliel'ha dato la federazione. Quando tutti sono partiti da meno 8 Juventus in Serie B, cioè per me è cosa ha vinto? Ditemi cosa ha vinto. Ma quello dopo, guarda, posso dire una cosa? A parte che una Coppa dei Campioni è arrivato a 30 secondi dai calci di rigore con quella che ha vinto il mezzo scudetto, c'era Sampdoria l'anno dopo. Ha vinto un decimo di Coppa dei Campioni perché poi l'ha persa, quindi un decimo, un terzo di mezzo scudetto con la Samp, poi ha vinto uno scudetto in segreteria. Battuta di Mourinho, uno perché gliel'ha regalato la federazione, un altro l'ha vinto lo stesso, però fa niente. Poi ha vinto da allenatore 4 Coppe Italia, ha vinto 2 volte la Supercoppa italiana, ha vinto un campionato inglese, ha vinto una Coppa d'Inghilterra con una squadra che non vinceva da 46 anni, cioè il Manchester City, e che anche quest'anno ha vinto una Coppa di Turchia, io veramente faccio fatica a capire. Tra l'altro anche Mancini, nazionale ha avuto un rapporto 1965, un po' così, non dimentichiamo. Sì, ha avuto un rapporto un po' così, però tra l'altro in un'epoca in cui di giocatori come Mancini ce n'erano di fortissimi nel giro nazionale, perché sai, magari oggi Mancini a 25 anni, pur con la sua testa, sarebbe un punto fermo di qualunque nazionale italiana. Allora ti poteva anche capitare di star fuori. Sì, non ha avuto un buon rapporto con la nazionale, come sappiamo. Però se qualcuno ha qualcosa da dire contro Mancini, visto che facciamo fatica a trovarlo, 800 24 00 24, noi stiamo qui e cioè, non chiamate solo voi che siete degli ammiratori di Mancini. Pochissimi detrattori, anche quelli che hanno un po' il dente avvelenato, due o tre detrattori noi di siamo Mancini. Qui e riceviamo tutto. Sandro, non c'è filtro. Sandro, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Dica. Salve. Volevo fare due domande veloci. Uno è, il calcio per i calciatori è un lavoro? È considerato lavoro? Beh, cioè, sono professionisti, cosa deve essere considerato la passeggiata? No, chiedevo, no, perché la seconda domanda è questa. Ma anche noi stiamo lavorando, amico. Cioè, appunto, non sembra, anche io sto lavorando. No, è per quello. Dicevo, Totti è uno che lavora, quindi. Ha un contratto o è gratis quest'anno nella Roma? Beh, la classica domanda pleonastica. E quindi? Quindi se un allenatore gli dice di entrare a 5 minuti dalla fine o a 30 secondi, almeno che non ha un contratto che dice qualcos'altro, lui entra e sta zitto, come mi sembra che faccia. Lui è entrato ed è stato zitto. Infatti lo fa, non mi pare che abbia, anzi è stato più che zitto. È per quello non capisco tutta questa diatriba su di lui, che potrebbe essere uno non se lo merita, giustamente, per l'amor del cielo. Però se, oltretutto lui non dice niente, perché bisogna dirlo noi? Ma perché noi possiamo anche esprimere dei pensieri. A me, perché Totti parla col linguaggio del corpo, sì. E quindi è evidente che sta soffrendo questa situazione. Parla con i sorrisi, le smorfie. Poi è stato un grande personaggio del nostro calcio, con quella mezza battuta che ha fatto a un giornalista spagnolo. È stato un grandissimo del nostro calcio. Possiamo anche discutere sul fatto che è stato il più grande del dopoguerra. Qualcuno è d'accordo, qualcun altro no. Come per Del Piero, a me spiace, cioè, io credo che venga sportivamente maltrattato quando deve entrare a fare la sostituzione per perdere tempo, perché a quel punto fa entrare il ragazzino e a quel punto Totti non lo porti neanche in panchina. Ciao Leo Turrini. Buongiorno maestro. Buongiorno a lei professore, mi sbaglio su Totti? Poi mi parli di rastremature. Ma io sono d'accordo con quello che stavi dicendo, è chiaro che i simboli non possono essere trattati alla stregua di semplici componenti dell'organico, no? Poi dopo uno si deve semmai chiedere, ma Totti come Del Piero sta facendo bene a prolungare così la sua carriera, quando nella squadra che è sempre stata il suo cuore, cioè la Roma, evidentemente chi l'allena, perché anche con Garcia non è che fosse tanto diverso, ritiene non ci sia posto. Ecco, questa è la cosa. Poi malinconicamente devo dirti che tranne che per la Ferrari il tempo passa per tutti, hai capito? Invece la Ferrari è un mito e i miti non invecchiano, dato che abbiamo appena vissuto l'emozione. I miti non invecchiano, i monumenti sì, i monumenti, caro Genta, tu mi insegni, no? Sono poi quelle costruzioni sulle quali talvolta i piccioni scaricano. Questa è il copyright di Dino Meneghin, che chiamavano monumento nazionale. Mi piace poco perché ci caga sopra i piccioni. Salutiamo Dino. È la verità, ma sulla Ferrari no. Ma senti, tranquillizzami Giovanni Capuano, perché ha sentito prima parlare di mentre commentavate Pescai di una Ferrari che è rastremata, il cui retro è rastremato da paura. Tu devi sapere che io narro in maniera molto modesta, per verità, la Formula 1 la stregua di un romanzo nazional popolare. Io non ti parlerò mai di rastrematura, darò subito la notizia del traffico sulla Fero Cormano. La rastrematura SF16-H, poi se vuoi ti spiego cosa sta l'H, è già ferma. Speriamo che riesca a mettersi in moto. No, a parte gli scherzi, lasciamo stare la rastrematura. La macchina da un perché punto lasci di stare la rastrematura? Lascio stare perché a me interessano questi dettagli tecnici. Se noi parliamo di un mito, seguimi maestro Genta, vogliamo dire che si tratta di qualcosa che appassiona la massaia, la nonna, il moccioso. Sì. La Ferrari e Valentino Rossi, tutti chiedono che risultato ha fatto, no? Anche se non si intendono di BL. Ma è chiaro, ma sicuramente. Poi se vuoi io adesso ti faccio anche una disquisizione tecnologica del bolide, testè svelato al mondo con record di contatti sui social. Sì, sono partiti leggermente in ritardo, faccio notare professor Turrini. Ma perché era l'esempio di Kimi a Monza quest'anno in prima fila, no? Non è partita, capito? Siamo pur sempre la squadra di Raikkonen e ci siamo adattati. Prevista ecco, per le 14, siamo andati un po' lunghi. D'altronde, 14:08:09. C'era un certo, come dire, shock a Maranello, per questo sgarbo mediatico degli odiosi tedeschi, hai capito? Ha ragione Renzi lì a Focus Economia con Barisoni contro la Merkel, ma ti sembra possibile? Nel giorno in cui la Ferrari svela le sue fattezze all'intero pianeta, cosa fanno quelli della Mercedes? Mandano la chetichella in pista la loro nuova vettura pochi minuti prima, ha girato Rosberg a Silverstone, un tentativo, vorrei dire, penoso di rubare la scena alla macchina di Maranello, una scorrettezza, amici sportivi, lasciatevelo dire, insomma, è vero, questa Ferrari è ferma sulla Pero Cormano, ma questi della Mercedes se la potevano risparmiare, ma fatelo girare adesso mezz'ora dopo. Vabbè, ma guarda, sembra che... studiata a tavolino, ma lo è, ma lo è, perché la battaglia psicologica è già cominciata. Ti darò anche una bruttissima notizia. Oddio. Ho visto il video, il frammento di Rosberg al volante della nuova Mercedes e mi pare che vada già fortissimo. Aia. Noi oggi abbiamo presentato la macchina a Maranello, ma ferma, statica, come un bellissimo quadro di Guttuso, hai capito? Con le mani di Vettel al posto delle mani di Zoff sulla coppa, eccetera, eccetera, eccetera, in francobollo e via. E loro erano già là che scorrazzavano a 300 all'ora. Vabbè, detto questo, non serve tanto il 22, bisogna aspettare qualche giorno. E il 22 la sentiamo macchina, anche musica e parole. Sì, la macchina esteticamente è splendida. Splendida, sì. Come si era anticipato, ne avevo parlato credo anche io la settimana scorsa, sì. Ci sono molte chiazze bianche e questo è suggestivo perché l'ultima Ferrari così bianca è quella storica di Niki Lauda che vinse il mondiale nel 75. Quindi è una Ferrari che si fa bianca come Lauda per battere Lauda che oggi è il capo della Mercedes. Come vedi, io ti ho già dato il titolo insomma per i tuoi lanci, i tuoi Twitter e quant'altro. Poi cosa ti posso dire, visto che scopro che ti interessano le nostre che premature, è bella, che è eccitante, no, allora, che ha un bel vestito, che tizzi voyeur per il momento. No, ascolta, le novità sono queste: il muso è corto, è un musettino un po' da un nasino rifatto, hai capito? Certe sciacquette attrici del cinema che vanno a rifarsi il naso quando invecchiano, questa è una roba così. E il retrotreno, il lato B è strettissimo. E qui mi trattengo perché siamo in fascia protetta. Però come è stato come fatto... il culetto di Belena, l'hai detto l'altro giorno. Sì, va bene, l'hai detto l'altro giorno. È stato fatto un grandissimo lavoro proprio di intervento sull'ingombro della Power Unit, che sarebbe il motore, il turbo più librido, per cercare di guadagnare una migliore efficienza aerodinamica. Quindi il retrotreno è molto più stretto, sono diverse anche le fiancate, perché c'è la necessità di fare respirare questo motore così complicato, così complesso. La sensazione è che abbiano lavorato seguendo uno schema ben preciso, le indicazioni del simulatore della galleria del vento sono buonissime, cioè da ferma la macchina, ferma sulla Pero Cormano, è molto più veloce di un anno fa. Poi adesso bisogna mettere le ruote sull'asfalto. Un'altra cosa bella che ti dico, molto romantica, dato che parlavi di simboli nazionali come Totti del Piero e persino il mio allenatore Mancini, è che torna il tricolore sulla Ferrari, c'è sempre stato, ma stavolta è posizionato in maniera molto evidente sulla presa d'aria, cioè alla spalle, diciamo così, per capirci, della testa del pilota. Sì. Esattamente come era sulla rossa di Niki del 1975. Ecco, queste sono le cose. Poi la macchina è stata presentata, Sergione con Seisao Marchionne non c'era, non si è fatto vivo perché non ha ancora il dono dell'ubiquità, pur essendo sia Detroit. Arriva bene, Torino, l'ha vestito come il matrimonio. In borso. Arriva bene, vi faccio notare questo accostamento tra lui e Barack Obama. Voi vi ricordate Obama quando entrò alla Casa Bianca? Aveva tutti i capelli neri, no? Dopo sei mesi gli erano diventati tutti bianchi. Voi guardate l'Iron Maury, arriva bene di oggi. E sembra Briatore. Sembra Briatore dopo bianco, il lifting. Bianco, candido. Cioè, io mi rendo conto, per questo vi dicevo le nonne, i mocciosi, le massaie, la Ferrari di fatto interessa a tutti, essere il capo del reparto corsi di Maranello ti trasmette uno stress che non è immaginabile, perché comunque tutti vogliono il risultato, se arrivi terzo dicono che delusione, figuriamoci dopo la passata stagione della quale sono stati molto più vicini che in passato la Mercedes, hanno vinto anche qualche gran premio. Quindi insomma meritano un grosso in bocca al lupo, perché è una sfida difficilissima. E lei, Genta, dovrebbe lanciare questo sondaggio. Lei, dica, che è così bravo. Dica. Allora, è più facile per la Ferrari battere la Mercedes o per la Juventus eliminare il Bayern? Questo doppio conflitto italo-tedesco, perché tanto noi sappiamo già. Temo sia più facile per la Ferrari. Dice. Allora, io vi dico questo. In politica lo sapete che la Merkel ha già eliminato Renzi in 2-7, no? Come vi spiegherà Barisoni a Fox. 6-3-6-2. Perfetto. Sì, sì. Ce la faremo a prenderci la nostra rivincita in macchina e col pallone? Senti Leo, ma tu che hai sbirciato la Mercedes da dietro la tenda, fortissima. La Ferrari è tanto diversa a vederla esteticamente da fuori o no? Perché poi il tema è quello, noi sono anni che ci accorgiamo quando presentano la Ferrari che è bellissima, quando presentano le altre che sono diverse, e poi la fregatura c'è. Devo fare una citazione d'autore di quelli che piacciono al maestro Genta. Enzo Ferrari, giusto ieri ricorreva l'anniversario della sua nascita, diceva sempre: una macchina è bellissima quando vince. Ah, sicuro. A me del giudizio estetico francamente interessa pochissimo, queste sono robe da aspiranti stilisti. Io vi dirò che questa è una bella macchina se sta davanti alla Mercedes. Adesso noi la rossa l'abbiamo vista, seppure statica in tutti i particolari. La Mercedes, c'è questo video che è un frammento di 30 secondi, sembra comunque diversa per quello che si può cogliere, perché stava viaggiando davvero Rosberg a Silverstone, diversa dal modello che l'anno passato ha dominato. Credo che anche loro abbiano cercato di intervenire per rendere la vettura ancora più efficiente in termini di carico aerodinamico, di precisione nell'entrata nelle curve, eccetera. Però è da lunedì a Barcellona, quando sono tutti lì sullo stesso nastro d'asfalto, che qualcosa avremo qualche informazione in più, però non abbiamo ancora svelato il mistero dell'H. E l'H cos'è, per chiudere? Cosa sta? Non sta per idrolitina, questo ve lo volevo dire. L'H sta per hybrid, perché voi non lo sapete, voi siete come le nonne, le mocciose, i bambini, ma in Formula 1 ormai questa è la seconda stagione che si corre, anzi la terza addirittura, che si corre con dei motori ibridi, perché c'è il turbo ma è accoppiato col motore elettrico, poi c'è il recupero d'energia del KERS. Il fatto che la Ferrari abbia voluto mettere l'H nella sigla della macchina è per gli ambientalisti. Ma no, secondo me è per la borsa. Ah, per la borsa. Sì, è per la borsa, per Soros e Marchionne, perché Marchionne recentemente ha detto che si è convertito alla svolta verde della produzione automobilistica, che nei prossimi 7 anni anche il gruppo Fiat Chrysler avrà almeno la metà del suo parco auto con l'ibrido e non con il metano, perché l'ultimo modello a metano, il gruppo Fiat, lo sapete, è stato regalato all'ex presidente Montezemolo, che non perdeva mai una presentazione. Bravo. Rimpianto avvocato che è fermo sulla Roma Fiumicino perché la multipla metano donatagli da Marchionne come regalo d'addio si sfascia sempre. Quindi se siete in coda sulla Roma Fiumicino è l'avvocato, è il presidente di Roma. Però 2024 SF16 H, save the planet. Ciao Leo Turrini, a presto, buon lavoro ragazzi. Ciao. Io saluto subito Giacomo Bagnasco che ci ha raggiunti. Buongiorno maestro Genta, i nostri vaneggiamenti sulla nuova Ferrari. 6 nazioni questo weekend, insomma, si riposa, si cura le botte delle prime 2 giornate, però noi siamo qui per capire innanzitutto come sta l'Italia. Ma l'Italia dal punto di vista fisico ha dovuto rinunciare a un paio di giocatori importanti, cioè Jega, che si è ben rivelato come esordiente, e Biagi, però rientra il vice capitano Ghiraldini come tallonatore, c'è Furno che a sua volta può rientrare in seconda linea, e rivediamo l'Oscar della sfortuna Luca Morisi, ricorderai che ha avuto un infortunio gravissimo in un test match contro le Figi, asportazione della milza, rientra, fa un ottimo 6 nazioni e poi si fa di nuovo male contro il Galles appena prima dei mondiali. È uno comunque dei giocatori del giacimento giovane che tutto sommato cominciamo a intravedere. Ci sono 2 mediani di Mischia che hanno 45 anni in 2 e qualcosa in più si può fare partendo da questi ragazzi, anche perché un mondiale finito deve cominciare un ciclo un nuovo. Un ciclo nuovo, no, no, ma infatti secondo me questo Sei Nazioni è particolarmente importante per questo motivo. Gianluca Guidi, buongiorno. Buongiorno. Giacomo, a te Gianluca. Ah no, Gianluca, la prima cosa che chiederei come allenatore delle Zebre, quindi di 11 dei 30 convocati, è proprio 13. Questa. Sono 13. Ah, ho contato hai male. Contato male, Giacomo, ha sbagliato no, il conto, ma dai. Lui ci mette anche i due infortunati che comunque sarebbero pronti. Ah, vabbè. In ogni caso abbiamo appena detto, Gianluca, che Canna e Padovani, due giocatori delle Zebre, i due mediani d'apertura, come dire, dare in mano le chiavi della macchina, insomma, a questi due ragazzi che in due fanno 45 anni. Possiamo essere speranzosi, ci sono dei giovani che si stanno mettendo in mostra, e diceva anche Carlo, questo è l'anno giusto per ripartire e qualche cambio generazionale va fatto per forza. Questo deve essere l'anno giusto, perché alla fine di un mondiale ci deve essere sempre un ricambio generazionale. In questo momento c'è un po' per volontà, un po' per necessità. Ma la cosa interessante è che Carlo Canna e Edoardo Padovani sono ragazzi del movimento, perché non sono né delle Zebre, né sono ragazzi che escano da un percorso condiviso, perché ci sarà stato un allenatore o un educatore che l'avrà allenati nella scuola, un allenatore Nanderotto di Benevento e di Mogliano che li avrà visti nelle squadre di mini rugby, e su fino ad arrivare a noi. Penso che i ragazzi in Italia ci siano, hanno dei percorsi, dobbiamo rispettarli dentro il percorso, dobbiamo avere un po' più di fiducia e cultura, perché da noi un 24enne giovane all'estero è un giocatore quasi fatto e finito, e quindi dobbiamo cambiare un po' anche questa cultura. Ma i giocatori ci sono anche nelle squadre nazionali juniores, così come nelle accademie, bisogna avere fiducia, avere un po' di cultura del giovane e metterci la faccia, e secondo me non abbiamo niente a invidiare alle altre nazioni, anche se hanno più storia e più strada di noi. Sì, e questo potrebbe essere davvero il tesoro nato dalla lunga semina della nostra esperienza nelle Sei Nazioni, perché sappiamo che con l'ingresso d'Italia nelle Sei Nazioni, insomma, l'effetto volano ha portato molti ragazzi ad avvicinarsi al rugby, che sia arrivato, ce l'auguriamo tutti, il momento del raccolto. Ah, me lo auguro, i dati sono confortanti, perché comunque, senza voler nascondersi dietro un dito, ma la nostra non è una nazionale che si contraddistingue per le vittorie, eppure c'erano 80.000 persone domenica allo stadio, segno che comunque questo sport è entrato nel vivere quotidiano dei ragazzi italiani, e questo secondo me è un punto di partenza molto importante. Dentro questo, torno a dire, ci vuole anche un po' di coraggio, ci vuole un po' di programmazione, un po' più di unità di intenti, perché i ragazzi ci sono. Mi sono collegato, stavate parlando di Luca Morisi, anche Luca Morisi, grande giocatore che ha fatto un percorso interessante, è un giocatore che vale i migliori centri a livello europeo, e secondo me anche lui è un altro ragazzo che esce da un percorso simile a quello che ha fatto Canna, Padovani, lo stesso Violi, Manici e tantissimi altri. Grazie Gianluca, presto! A prestissimo, grazie, e prestissimo. Bocca al lupo, grazie a tutti, arrivederci. Ciao Gianluca Guidi, ho un messaggio, ma i toscani allenano tutto? I toscani allenano anche tutto. Nel rugby, per dire la verità la Toscana non è una grande regione rugbistica, ma sì, ha sempre espresso dei buoni giocatori e dei buoni allenatori, nel calcio fa impressione, quindi per queste riflessioni comunque speciale Sei Nazioni anche sul sito, certo, del Sole 24 certo, Ore, certo. Dove tra l'altro l'ultima riflessione è questa: chi avrebbe detto 10 anni fa che c'erano 55.000 persone per una partita di Champions League e 72.000 per una del Sei Nazioni a Roma, quando la Champions League è Roma-Real Madrid? Torniamo domenica con Giovanni Capuano naturalmente al volante, con anche con Giacomo Bagnasco. E compagno. Con tutti gli altri, purtroppo è finito il tempo, quindi non possiamo fare l'elenco degli ospiti domenica. Okay. Alle 17 li scoprirete tutti. Sei bastardo, tutti, perché tutti. Avevi promesso. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, il nostro autore, a Federico Binda in redazione, ad Andrea Roccabelli in regia. Ci sentiamo domenica, ciao. Saluti.